Buonasera da Marco Gravelli, anche se oggi vacanza ci siamo con l'appuntamento del venerdì di Hard & Heavy, quello dedicato alla musica live, come sempre suddiviso in due parti, una più hard rock e una più heavy metal. Andiamo a proporre tra breve Aerosmith con il loro bellissimo primo album doppio live bootleg e poi nella seconda parte in Metal Church, quindi direi non male anche l'appuntamento di questa sera, che come tutte le altre puntate di Hard & Heavy potete riascoltare se ve le perdete tramite il nostro sito www.radiorockfm.com. cliccate su programmi in archivio, lì trovate le puntate di Hard & Heavy. Ringrazio come sempre il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, nonché il nostro autore Simone, che ha lavorato sodo anche per quest'oggi. Parliamo allora di questo live bootleg. È il primo live della band, uscito nel 1978 dopo 5 album in studio. Si tratta di non un solo concerto, ma di diverse date di un tour intrapreso tra il 77 e il 78 negli States. È arrivato al numero 13 nelle charts di Billboard. La formazione, che nonostante alcuni cambi all'inizio degli anni 80 è ancora la stessa, è quella composta da Steven Tyler alla voce, Joe Perry e Brad Whitford alle chitarre, Tom Hamilton al basso e Joey Kramer alla batteria. Il primo pezzo che andiamo a proporre è proprio quello che apriva lo show, la cui versione in studio si trova nel quarto album Rocks. Fu anche il terzo singolo estratto da quell'album, e sto parlando di Back in the Saddle, Aerosmith. I'm back in the saddle. Questo è il primo motivo che vi abbiamo proposto dal live bootleg. È stato registrato questo brano a Indianapolis, anche il prossimo che sarà Mama Keen. Ma parliamo della band, di questa famosissima hard rock band americana, precisamente di Boston. 37 anni di attività, milioni e milioni di copie vendute in tutto il mondo, dischi d'oro e multi platino, ovvero sia più di un milione di copie vendute. Il gruppo nasce proprio nel 70, creato dal chitarrista Joe Perry, dal bassista Tommy Hamilton, che entrambi militavano insieme in una band che si chiamava Jam Band, e poi il cantante Steven Tyler, il cui vero nome è Stephen Victor Tallarico. La lineup venne completata dal batterista Joey Kramer e dal secondo chitarrista Ray Tabano, che però fu subito sostituito dal chitarrista Brad Whitford, e quindi ci siamo con la formazione. Dopo alcune esibizioni nel 72 ottengono un contratto e in due sole settimane registrano l'album d'esordio, pubblicato nel 1973, e ottengono un contratto con la CBS Sony Music. Meglio andò anche col secondo album, Get Your Wings, del 74, che arrivò al numero proprio 74, guarda la casualità, in America. Ebbene, dal primo album andiamo ad ascoltare quello che è stato il primo singolo estratto, Mama Keen, naturalmente in questa versione dal vivo, anch'essa registrata nella stessa serata di Back in the Saddle, quindi il 7 di aprile in quel di Indianapolis. Keep in trouble, mama, kill. Oh, tell her where you gonna be. Mama Keen, da Live Bootleg Aerosmith. Ricordiamo che questo è stato il loro primo singolo in assoluto, estratto dal primo omonimo album. Dopo la pubblicazione di Get Your Wings, il successo arriva col terzo lavoro, il famoso Toys in the Attic, che arriva al numero 11 nelle charts americane. Questo successo spinse anche alla ripubblicazione dei due precedenti album, tanto che l'album d'esordio questa volta raggiunge la 21esima posizione. E poi arriva un altro grande lavoro, il quarto, Rocks, al numero 3 in America, il loro primo disco di platino, ovvero sia 1 milione di copie vendute. A tutt'oggi ha superato i 4 milioni di copie. Dopo questo grande successo arriva il quinto lavoro, Draw the Line, che rispetto ai precedenti lavori ebbe un successo leggermente inferiore, perché si parla di 2 milioni di copie vendute. Durante il tour di supporto a quest'album vengono registrate le date di questo live album, il primo della loro lunga carriera. Ne seguiranno, vado a memoria, altri come Live Classic 1 and 2 e poi uno negli anni fine 90, inizio 2000, e lì siamo già su i CD. Andiamo a proporre un altro loro classico, cioè Toys in the Attic. Oltre che title track del terzo album, è stato il secondo singolo estratto da quel lavoro e arrivò al numero 10 in America. Stiamo parlando quindi di Toys in the Attic, e questa volta il brano è stato registrato non a Indianapolis, ma un anno dopo, nel 78, in quel di Boston. Yeah. Toys in the Attic Toys da Live Bootleg, un vinile oppure ormai ristampato in CD che vi consiglio caldamente, come quasi tutti quelli che vi stiamo proponendo nello spazio del venerdì di Arden Davy Live. Continuiamo a parlare della loro storia. Diciamo che dopo la pubblicazione di questo Live Bootleg avvenuta nel 78 emergono un po' di problemi all'interno della band, soprattutto dovuti agli eccessi di droga da parte di tutti i componenti, e i malumori arrivano nel 1980. In effetti, un anno dopo la pubblicazione dell'album Night and the Nuts, entrambi i chitarristi, ovvero sia Joe Perry e Brad Whitford, lasciano la band. Joe Perry creerà il proprio gruppo, il Joe Perry Project, e i loro posti saranno presi da Jimmy Crespo e Rick Dufay. Con questa nuova lineup pubblicano l'album Rock in a Hard Life, considerato un insuccesso visto i loro precedenti lavori, le loro vendite. In effetti l'album arrivò al numero 32 in America e vendette qualcosa come poco più di 500.000 copie. Nel 1984 c'è da segnalare però il ritorno di Joe Perry e di Brad Whitford e, vista la reunion, segue un nuovo tour e la pubblicazione del loro secondo album live, suddiviso in due parti, Classic Live 1 e Classic Live 2. Poi vengono venduti separatamente oppure un cofanetto con entrambi. Nel frattempo, nel 1985 arriva un nuovo album in studio, Done With Mirrors, che però si mantiene in linea con il precedente lavoro, nonostante il rientro in lineup dei due storici chitarristi. Altro brano che andiamo a proporre è una delle più belle ballad in assoluto della storia del rock, Dream On. La versione in studio si trova nell'omonimo album d'esordio, fu uno dei tre singoli estratti da quell'album. Pensate che raggiunse per la prima volta la 59esima posizione delle classifiche dei singoli. Qualche anno dopo, ristampato, arrivò al numero 6 questa volta. Il motivo si intitola Dream On. La bellissima Dream On da Live Bootleg. Siete su Rock FM nello spazio di Hard and Heavy. Arriviamo all'ultima parte della storia della formazione. 1986. C'è da segnalare che il cantante Steven si sottopone ad una cura per disintossicarsi dalla droga, dalla quale a quanto pare ci riesce ad uscire, cosa che faranno anche gli altri membri della band nei mesi successivi. Il gruppo ritorna in salute sotto ogni punto di vista e il risultato è Permanent Vacation, che li riporta ad alti livelli sia musicali che di vendite in tutto il mondo. Ciò gli valse un tour con i Guns N' Roses. Il grande successo tornerà anche con l'album del 1989, cioè Pump, che rimarrà tale sino ai nostri giorni. L'ultimo album in studio con propri motivi è Just Push Play e risale al 2001, anche se in questo periodo stanno lavorando ad un album nuovo. Nel 2004 è uscito un album di cover di blues, dedicate solo alla musica blues, più una traccia inedita. Insomma, la carriera degli Aerosmith prosegue, meno male, direi 37 anni di attività. Abbiamo ascoltato Back in the Saddle, Toys in the Attic, Dream On, Mama Keen, tutte estratte da questo doppio live che propone serate, concerti tra il 1977 e il 1978. E andiamo a chiudere con un altro loro cavallo di battaglia, una canzone che poi è stata in studio ripresa, rifatta insieme ai Run DMC e ha vissuto quindi di nuovo un grande periodo di successo. Sto parlando di Walk This Way, ultimo brano catturato da Live Bootleg, e poi ci dedicheremo nella seconda parte di Hard and Heavy allo spazio metal con i Metal Church. I was a really long beat up. Conclusa la prima parte di Hard and Heavy di questo venerdì sera con lo spazio dedicato al live hard rock. Abbiamo proposto il live bootleg degli Aerosmith. Eccoci nella seconda con i già annunciati Metal Church, band americana precisamente di Seattle, attiva dal 1983, anche se la primissima lineup era stata formata dal chitarrista Vanderhoof in quel di San Francisco nel 1980 e nella quale aveva militato per un breve periodo il giovanissimo batterista Lars Ulrich, che successivamente diede vita ai Metallica. Ebbene, l'album che andiamo a prendere in considerazione si intitola semplicemente Metal Church Live, è uscito nel 1998 in occasione della loro reunion. Si tratta di diverse date però registrate ben 12 anni prima, ossia nel 1986, durante il tour di supporto al secondo album The Dark. Presenta 10 brani, equamente suddivise tra il primo e il secondo album, e delle quali l'ultima è la cover dei Deep Purple Highway Star, che comunque era già presente nel loro album d'esordio. La lineup: David Wayne alla voce, Kurt Vanderhoof, leader del gruppo, e Craig Wells alle chitarre, Duke Erickson al basso e Kirk Harrington alla batteria. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è quello che apre il lavoro, Ton of Bricks, la cui versione in studio si trova nel secondo album The Dark. Sono i Metal Church. Briggs, questo è il titolo del brano che apriva lo show in questione, questo concerto, e anche il motivo che si trova nel loro secondo album in studio, The Dark. Abbiamo detto che la band arriva da Seattle, attiva dal 1983, formata e fondata dal chitarrista, appunto, Kurt Vanderhoof, forse avrà origini olandesi. Per quanto riguarda invece il nome, la scelta di Metal Church deriva dal nome che lui e i suoi amici avevano dato ad un appartamento dove vivevano, dove veneravano l'altare dell'heavy metal. Vabbè, Metal Church. Nel 1982 registrano e pubblicano un'autoproduzione, un demo dal titolo Four Hymns, mentre il vero e proprio debutto arriva nel 1984 con l'omonimo album Metal Church, pubblicato da una piccola etichetta indipendente, che gli permise però di ottenere un contratto con la major elettrica Elektra, che lo ristampò l'anno successivo. Il secondo lavoro, The Dark, arriva nel 1986, riuscì a raggiungere la 92esima posizione delle charts americane. Altro pezzo che andiamo ad ascoltare? Hitman, un classico, la cui versione in studio si trova nel primo album Metal Church e faceva parte anche del loro primo demo tape citato poc'anzi, cioè Four Imps. Primo album Metal Church, le note di Hitman dalla Live, uscito nel 1998, ma tengo a sottolineare e precisare di nuovo che si tratta di un concerto registrato ben 12 anni prima, durante il tour di supporto al secondo album The Dark, che esce nell'86. Dopo la pubblicazione però di questo lavoro, il cantante e il chitarrista fondatore Van der Hoff abbandonano la band. Infatti David Wayne vocalist, viene sostituito da Mike Hove, proveniente dagli Heretic, e Van der Hoff invece sarà sostituito da John Marshall dei Blind Illusion. Esce così il terzo album, Blessing in Disguise. Siamo nel 1989, che va ancora meglio a livello di vendite rispetto al precedente e raggiunge la posizione numero 75 negli States. E con questo successo partirono anche per un tour europeo. Però, come accade per molte band, arrivano gli anni 90. E quando si parla degli inizi degli anni 90, si parla del grunge che spazza via tutto quanto, e quindi anche l'interesse per il metal church viene a diminuire. Altro brano che andiamo a proporre si intitola Start the Fire. La versione originale in studio si trova nel secondo album The Darker. Dall'album The Dark, secondo album qui proposta nella versione live per la formazione dei Metal Church. Continuiamo a parlare della loro storia. Dopo la pubblicazione, abbiamo detto, due album, The Human Factor e Hanging in the Balance, rispettivamente del 91 e del 93, la band, proprio perché l'interesse intorno a loro va man mano diminuendo, si scioglie. Il chitarrista Van der Hoff nel 97 pubblica un album solista insieme all'ex batterista della band, che ottiene a sorpresa un buon riscontro. Questo ritrovato entusiasmo porta il gruppo a riunirsi nel 1998 con la line-up storica, quella con la quale stiamo proponendo questo live. In effetti, per celebrare questo evento partono in tournée e poi vengono registrate diverse tappe di questo tour e viene pubblicato questo loro album dal vivo, dove vanno a proporre proprio le canzoni del primo e del secondo album, come questa che si intitola Behind the Black, la cui versione in studio si trova nel primo album Metal Church. Beyond the Black. In the late 1900s, there is no human race. We split the planet with atomic birth. Man has died. We sealed the earth. si intitola Behind the Black, dall'album Live che vi stiamo proponendo per il Metal Church, stampato in Europa dalla SPV Records nel 1998. Stavo leggendo appunto le citazioni di, della band stessa, che scrive: questa è una collection di registrazioni live del 1986, sono stati questi nastri per tanto tempo in archivio, francamente è una documentazione esatta di quello che noi facevamo dal vivo, non ci ricordiamo in quali città, perlomeno tutte in quale città sono state registrate, di sicuro qualcosa è stato registrato in quel di Dallas. Bene, abbiamo ascoltato Behind the Black. Dopo questa reunion, dopo la pubblicazione del live, arriva finalmente anche un nuovo album in studio, Masterpiece, pubblicato nel 1999. Però le cose, a quanto pare, non vanno nel miglior dei modi. E in effetti c'è addirittura un triplo cambio di line-up, con l'ingresso di un nuovo cantante, Ronnie Munro, proveniente dai Rottweiler, un nuovo secondo chitarrista, Jay Reynolds, proveniente dai Melis, e un nuovo bassista, Steve Unger. Con questa nuova line-up registrano l'album Weight of the World, uscito nel 2004. Il 10 maggio del 2005 purtroppo c'è da segnalare la triste scomparsa dello storico cantante David Wayne, che ascoltate proprio in queste tracce. L'anno successivo, 2006, è stato pubblicato l'ottavo e ultimo album in studio della band, si intitola A Light in the Dark, che vedeva un nuovo importante abbandono con la fuoriuscita dello storico batterista Kirk Harrington e il relativo ingresso di Jeff Plate, proveniente dai Savatage. In tema di pubblicazioni, quest'anno è uscito sul mercato un DVD dal vivo, registrato durante un festival, il Dynamo Festival. L'annata era il 1991. Ricordo che la formazione di questo live è quella storica: David Wayne, voce; Kurt Vanderhoff, Craig Wells, chitarre; Kirk Harrington, batteria; Duke Erickson, basso. Concludo con il pezzo Metal Church, quello che dà il nome alla band. Vi lascio quindi al resto dei nostri appuntamenti musicali. Vi ringrazio come sempre il nostro sponsor in primis, Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, il nostro autore Simone, che ha preparato tutte le schede biografiche della band. Ricordo che potete riascoltare tutte le puntate di Hard and Heavy in onda da lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Rock FM grazie al nostro sito www.radiorockfm.com. Da Marco Gravelli è tutto, ciao, buon weekend.